baby. Ma dimmi un po' che me tocca cantare. Va bene l'amore, attacca. Donna, quante volte ti ho detto che se tutto non ho altro per te. Ho cambiato il mondo che mi ha cambiato. Quello che ho fatto, io l'ho fatto per te. Ogni tanto da una vecchia balera suonano i canti che cantavi tu. E una stella nera, nera, nera scivola a terra e va sempre più giù. Mille, mille, mille chilometri ci separano ogni giorno, Gesù. Quante volte ti ho cercato, quante volte non ti ho visto più. Mai nessuno ti ha costretto ad uscire, mai nessuno ti ha costretto ad entrare. Questo è stato forse il tuo paradiso, di sicuro il mio inferno, il mio errore. Non ricordo mai un battito d'ali, ci vuole altro per non dimenticare, per stampare l'amore nel cuore, sotto le lenzuola, sotto a un guanciale, le tue lacrime da baraccone, sotto ai miei occhi, sotto a un portone. Strade senza alcuna direzione, strade senza alcun nome. Mille, mille, mille chilometri ci separano ogni giorno, Gesù. Quante volte ti ho cercato, quante volte non ti ho visto più. Mai nessuno ti ha costretto ad uscire, mai nessuno ti ha costretto ad entrare. Questo è stato forse il tuo paradiso, di sicuro il mio inferno, il mio errore. Crepuscoli ad ogni gesto del giorno, in ogni viaggio ma in solo ritorno, sempre in cerca di soddisfare piaceri. Insieme eravamo sempre da soli, una pistola nascosta in un cassetto, ma i veri ladri avevano un altro volto. Il nostro paradiso era un inferno, il nostro passatempo misero eterno. Mille, mille, mille chilometri ci separano ogni giorno, Gesù. Quante volte ti ho cercato, quante volte non ti ho visto più. Mai nessuno ti è costretto ad uscire, mai nessuno ti è costretto ad entrare. Questo è stato forse il tuo paradiso, io sicuro il mio inferno, il mio errore. Oh. E andiamo.